pele lusciché. Come mi accecano voglio capire tu, se questi amici che e provaci tu a stare a braccia aperte.